た。Se quello in cui confido e confiderò per l'eternità. Un giorno ti incontrai, mi innamorai di te. Aperto è il mio cuore e sei entrato in me, in me, sei in me, in me. M'hai amato per prima, m'hai fatto capire cosa vuol dire amore. M'hai preso per mano, mi hai fatto capire cosa vuol dire amore, il tuo amor per me. Il tuo amor per me. Tu amor.